sì, li ho conosciuti benissimo. Ma io abitavo appena più giù lì in Via Romagna, tra Via Romagna e Via Marghinotti, era, cioè tra Via Teresa e Via Marghinotti, c'è una via in Via Romagna, a metà abitavo io. Ti sto guardando, ma ho visto gli apparecchi. sicuramente belli, però non riesco a visualizzare a te. A me? Ah, sta dicendo a me, sta dicendo. Non lo so, no. Però io ti ho già visto, sto dicendo, se no te l'avevi detto, no. Caspita, non lo metto in dubbio. Non ti ho conosciuto, ecco, magari una ragazzina, boh. Ragazzi, ragazzi. Ecco, uno non ce l'ho più di quelli lì, uno l'ho dato via, quello grande grande. Gatta. Chi c'è altro? Altro? E chi vuole entrare? Ciao, pensavo già qualcun altro al momento che ho cambiato l'apparecchio. No. Busco, vai a controllo per cortesia. Ero distratto, dimmi. Me lo può fare il controllino? 9.5, Radio 5 è buona. Va bene, no, io sono piccolino, te lo so, che altrugno, dai, sono piccolo. Va bene, signori, dai, vi lascio la vostra questione, che io adesso vado a coricare il bimbo, se no qua la mamma ci canta il cucco anche. Dai, Musco. Piacere l'ho fatto, Musco. Ah, fa sì, dai, non c'è problema. Comunque, dai, quando capiterà che non c'è problema, dai, ci conosciamo, se ci troviamo e cosa, non c'è problema. Io non fa niente, già non è niente di... Anzi, è sempre bello conoscere nuova gente. Va bene, vi saluto, buon proseguo, ci si riascolta nei prossimi mesi. E io Musco, dai, tutto quanto cambiato al 100, dai. Ciao, sì, dai. Ok. A che? Ho montato lì. Ehi, diciamo sì, io come sono, tu? Abbastanza bene, arrivi, dai. 9.15 a Radio 5. Aspettino, allora si è voluta via tutta la finestra. Ma che tutta la finestra? Non ho capito. Io sono molto lontano da te. Ehi, no, scherzo, Antonio. Ehi, chi siamo rimasti? Io, te e le rose? Papà, c'è Antonello, c'era poco fa. Eravamo in FM, eravamo, poi boh, adesso si è andata a mangiare, ma è 10 minuti che si è andata a mangiare. Ah, positivo, punto. Come? Pugno? Aspetta, no, Antonello la usci. Aspettivo, allora vuol dire sta mangiando la costa? La riuscita ci sarà mai niente. Positivo. Va bene che va bene. Passa. Andava. Cucata di te. Dromme. Che è chi è tu? La gattina. E vuol dire sacca, va? Scappa. Aspetta. È drumista. Tracca, va a caso con la resa. Ah, quello sia tu. Non lo so proprio di noi. A caldo, già, mi scappasse un po' il latte quasi, no. Ecco qua, così va meglio. Stava soffrendo sta pausa. Infatti è stata traiata. È positivo, dai. Anche loro hanno le sue esigenze. Chiamano Rogero. E Gio Claudio. Gio Claudio è uscito. Uscito. Ciao. Dai, uscito. Dice che c'era troppo caldo a casa. Positivo. Vabbè, in effetti, ma però un po' di arietta sta tirando, no? Sì, un pochettino, sì, ma peccato, grazie, sul ventilatore. Ci vuole. scappa. E che cagnetto tuo com'è? Il mio sta poverino, guarda, è come che aveva febbre. Povera Zucca. È caldo già pure lui. Sì, ma lui ebbe un più di loro, ne risentono più di noi. Ne risentono ovviamente. Bene tu. Mi attorno. Guarda la stavolta. Certo. Ma sottino, positivo, positivo. Allora, per dei tre mesi a voi, no, noi li lasciamo e li approccio. Tutto comprendere che questi animali, tutto capiscono. Bene. Molte volte mi mette solo la parola. È vero, ma guarda, anche i gatti dicono che no, bomba, chi si comprendere tutto, ma se tutto quello che dici fare, capiscono, sono intelligentissime. È positivo. Ma appunto, dai, io ti lascio un attimino, perché c'ho gente, già riprendo più dopo se coincide. Se no, vi chiedi il super salutato a te, guarda la famiglia. E a capo, non c'è problema. Via, ciao. Ciao. Ciao a tutti, sono tornato a correre.